facile pensare sia successo di tutte le peggiori, l'unica che scarti, strappato da un evento che chissà chi l'ha deciso. Non posso stare fermo, sommerso dall'evento. Parte di un altro presente, convinto di trovare la forza di lottare, leggero in viaggio con i venti del mondo. Faccia male, a testa bassa suono note del tormento.